con Gianni ti arrivite go. E con Gianni ti arrivite go. Uco nauco ti arrivite go. Nghia barabarani ti arrivite go. Nghia Gianni ti arrivite go. Uco nauco ti arrivite go. Gianni ti arrivite go. Giao, chi to tocca da tamba. Alue, un buon giao, chi to tocca da tamba. Toni che me, un buon giao, chi to tocca da tamba. Watoto wakwako nani atawalea, familia kwako nani atawalea, mzigo wakwako nani ataulea. Yembe Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Kawelo Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Mungu wa njiao, kitoto kaanza tamba. Yo, yo, kulia, ah ah. Naanza kulia, ah ah. Kembe, fungua njia, kitoto kaanza tamba. Katambo, fungua njia, kitoto kaanza tamba.